E allora, cari amici, benvenuti alla Tutto Gol, la trasmissione che con i suoi argomenti fa discutere quotidianamente le persone di calcio e anche dei funghi nel mese di ottobre. Oggi abbiamo un grande collegamento, abbiamo l'attaccante del Milan e della Nazionale, Antonio Cassano. Regia, siamo pronti! Paolo, un attimo, vedi che ha detto Antonio che ti fanno squello. Poi tu richiami che ha finito i soldi e i minuti da win. Ma era madanza, chi ne i soldi e chi cazzo, ma non ci fa più squello. Comunque noi riproviamo ugualmente. Pronto? Uè, guaglio, buonasera a tutti! Ciao Antonio, innanzitutto, come stai? Tutto bene? Bene, grazie, guaglio, ho preferito il mangio. Ma mi pare a corriglianese che si connega. E cosa hai mangiato? Ma una cosa leggera, antipasto, 50 grammi di kit coci di rapa, poi la cacciatura, una torzata, un orecchio, due casche di banane e caffè. La prossima volta hanno un traduttore, sinceramente, perché non ce la faccio. Addirittura! Ehi, se come laser mi devi mantenere leggero. Allora, parliamo di calcio. È vero che fa 3 anni vuoi lasciare il calcio? Guaglio, si sta da allenamento, interviste, partiti, cena, donne. Ma scusa, una cosa, ma a tutti allene? Sì, guaglio, a tavola mi alleno e tu mi alleni. E dopo il calcio cosa farai? Ma guarda, non so fare un ghezzo, guaglio, modestamente, quindi in Italia qualcosa la riuscirò a fare. Ecco, bravo Antonio, come vedete amici, nella nostra trasmissione c'è anche uno spazio di critica sociale e in conclusione cosa ci dici, caro Antonio? Ah, oh, perché mio amico Silvio mi trovo qualche occupazione, presidente della regione Puglia. Va bene, allora siamo proprio a posto, ti salutiamo regia, ciao Antonio e Forza Lecce, o cazzo di bar!